Il conte? Misera me! Susanna, tu mi sembri agitata e confusa. Signor, io chiedo scusa, ma se mai tu mi sorpresa, per carità parti! Un momento e ti lascio. No, nulla. Due parole. Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre me con Figaro destinai. Signor, se osassi. Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, fin che tu vivi ti vieni, imponi, prescrivi. Lasciatemi, signor, dritti non prendo, né ne voglio, né intendo. Oh, ma infelice. Ah, no, Susanna, io ti vo' fare felice. Tu bene sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrudire del giorno, ah, per questo favore io pagherei. Sei uscito poco fa. Chi parla? A te. Esci al comune, entri. Io vi lascio qui solo. Tabadaba sarà, va a cercarlo. Dietro mi parrò. Ma avvicinate. Facci e cerca che mi parla. Ahimè, che fate? Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso di tutto il conte? E cosa deve farmi qui il conte? Alle uscite! Aspettate, sentì che figura di lui c'è. Ehi, circa chi non pavai più l'odia. Vediamo come mi serve. Io non ho mai nell'amore sentito qualcuno che la moglie odi il marito. Per dir che il conte mama. Sortitemi il ministro della tua sfrenatezza. Io non ho parere le vostre morali nel conti del suo amore. Non c'è alcun male a ciascuno i suoi gusti. Io mi credia che preferire doveste per amante, come fan tutti quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paccio. A Cherubino? A Cherubino? Che robe d'amore, cocci sul fal del giorno, passeggiava qui intorno per entrare. Oh, mondo! Un'impostura è questa. Io maligno con voi, che ha gli occhi in testa, e quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui non la dico, e per voi, per madama. Che diavolo l'ha detto? A proposito, figlia, istruitelo meglio, e la guarda a tavola si spesso, e con tali immodestia, che se il conte s'accorge, e su tal punto, sapete, egli è una bestia. Scenaraccio! E perché andate voi da mezzo di spargetto? Io, che giustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Come? Che dicono tutti? Oh, bella! Oh, cielo!